Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. La marchesa da Teleta soleva passare a Schifanoia l'estate e parte dell'autunno, poiché ella, pur essendo tra le dame una tra le più mondane, amava la campagna e la libertà campestre ed ospitare amici. Ella aveva usato ad Andrea infinite cure e premure durante la malattia, come una sorella maggiore, quasi come una madre, senza stancarsi. Una profonda affezione la legava al cugino. Ella era per lui piena di indulgenze e di perdoni. Era un'amica buona e franca, capace di comprendere molte cose, pronta, sempre gaia, sempre arguta, a un tempo spiritosa e spirituale. Pur avendo varcata da circa un anno la trentina, conservava una mirabile vivacità giovenile e una grande piacenza. Anche possedeva una virtù rara, quella che comunemente si chiama il tatto. Un delicato genio femminile era le di guida infallibile. Il suo contegno verso Andrea, in questo periodo di convalescenza un po' strano e ineguale, non poteva essere in verità più squisito. Ella cercava in tutti i modi di non disturbarlo e di ottenere che nessuno lo disturbasse. Gli lasciava pienissima libertà, mostrava di non accorgersi delle bizzarrie e delle malinconie. Non li infastidiva mai con domande indiscrete. Faceva sì che la sua compagnia gli fosse leggera nelle ore obbligatorie. Rinunziava persino ai motti in presenza di lui per evitargli la fatica di un sorriso forzato. Andrea, che comprendeva quella finezza, era riconoscente. Il 12 di settembre, dopo i sonetti dell'Erma, egli tornò a Schifanoia con un'insolita letizia. Incontrò donna Francesca sulla scala e le baciò le mani, dicendole con un tono di gioco: «Cugina, ho trovato la verità e la via. Alleluia!» fece donna Francesca levando le belle braccia rotonde, ed ella discese nei giardini e Andrea salì alle sue stanze col cuor sollevato. Dopo poco egli udì battere leggermente all'uscio e la voce di donna Francesca chiedere: «Posso entrare?» Ella entrò, portando nella sopravveste tra le braccia un gran fascio di rose rosee, bianche, gialle, vermiglie, brune, alcune larghe e chiare, come quelle della Villa Panfili, freschissime e tutte imperlate, avevano non so che di vitreo tra foglia e foglia. Altre avevano petali densi e una dovizia di colore che faceva pensare alla celebrata magnificenza delle porpore d'Elisa e di Tiro. Altre parevano pezzi di neve odorante e facevano venire una strana voglia di morderle e di ingoiarle. Altre erano di carne, veramente di carne, voluttuose come le più voluttuose forme di un corpo di donna, con qualche sottile venatura. «Oggi è festa!» ella disse ridendo, e i fiori le coprivano il petto fin quasi alla gola. «Grazie, grazie, grazie!» ripeteva Andrea, aiutandola a deporre il fascio sul tavolo, sui libri, sugli albi, sulle custodie dei disegni. «Rosa rosarum!» Ella, poiché fu libera, adunò tutti i vasi sparsi per le stanze e si mise a riempirli di rose, componendo tanti singoli mazzi con una scelta che rivelava in lei un gusto raro, il gusto della gran convitatrice. Scegliendo e componendo, parlava di mille cose con quella sua gaia volubilità, quasi volesse compensarsi della parsimonia di parole e di risa usata fin allora con Andrea, per riguardo alla malinconia taciturna di lui. «Tra le altre cose», disse, «il 15 avremo una bella ospite, donna Maria Ferres y Capdevila, la moglie del ministro plenipotenziario di Guatemala. La conosci?» «Non mi pare.» «Infatti non la puoi conoscere. È tornata in Italia da pochi mesi, ma passerà l'inverno prossimo a Roma perché il marito è destinato a quel posto. È una mia amica d'infanzia molto cara. Siamo state insieme a Firenze 3 anni all'Annunziata, ma è più giovane di me.» «Americana?» «No, italiana, e di Siena per giunta. Nasce di casa Bandinelli, battezzata con l'acqua della fonte Gaia. Ma è piuttosto malinconica di natura e tanto dolce. La storia del suo matrimonio anche è poco allegra. Quel Ferres non è simpatico punto. Hanno però una bambina che è un amore, vedrai. Pallida pallida, con tanti capelli, con 2 occhi smisurati. Somiglia molto alla madre. Guarda, Andrea, questa rosa se non pare di velluto. E quest'altra, me la mangerei. ma guarda proprio se non pare una crema ideale. Che delizia! Il 15 settembre, un mercoledì, giunse l'ospite nuova. La marchesa andò insieme con il suo primogenito Ferdinando e con Andrea ad incontrare l'amica nella prossima stazione di Rovigliano. La marchesa parlava dell'amica ad Andrea con molta benevolenza. «Credo che ti piacerà», ella concluse. Poi si mise a ridere come per un pensiero che le attraversasse lo spirito improvvisamente. «Perché ridere?» chiese Andrea. Ecco, pensavo a un altro annunzio di presentazione e a un'altra presentazione che io ti feci, son quasi 3 anni, accompagnandola con una profezia allegra, ti ricordi? Ah, rido perché anche questa volta si tratta di una incognita e anche questa volta io sarei l'auspice involontaria, ma il caso è diverso, ossia è diverso il personaggio del possibile dramma, cioè Maria è una turris eburnea. Io sono ora un vas spirituale. Guarda, dimenticavo che tu hai finalmente trovato la verità e la via. L'anima ride li amor suoi lontani. Tu citi i miei versi. Li so a memoria. Che amabilità. Del resto, caro cugino, quell'assai bianca donna con l'ostia in mano m'è sospetta. Ma tutta l'aria di una forma fittizia, di una stola senza corpo, che sia alla mercede di quella qualunque anima d'angelo o di demonio, intenzionata ad entrarci, di amministrarti la comunione e di farti il gesto che consente. Sacrilegio, sacrilegio. Bada a te. E fa ben la guardia alla stola e fa molti esorcismi. Siamo giunti, cugina. Ridevano ambedue. Entravano nella stazione mancando pochi minuti all'arrivo del treno. Il 12enne Ferdinando, un fanciullo malaticcio, portava un mazzo di rose per offrirlo a Donna Maria. «Ecco il treno!» disse Ferdinando. La marchesa si avanzò incontro alla benvenuta, che era già allo sportello, e salutava con la mano e accennava con la testa tutta avvolta di un gran velo color di perla, coprente a metà il cappello di paglia nera. «Francesca! Francesca!» e la chiamava con un'effusione tenera di gioia. Quella voce fece su Andrea un'impressione singolare. Gli ricordò vagamente una voce conosciuta. Quale? Donna Maria discese con un atto rapido ed agile e con un gesto pieno di grazia sollevò il velo fitto, scoprendosi la bocca per baciare l'amica. Subito, per Andrea, quella signora alta e ondulante sotto il mantello di viaggio e velata, di cui egli non vedeva che la bocca e il mento, ebbe una profonda seduzione. Tutto il suo essere, illuso in quei giorni da una parvenza di liberazione, era disposto ad accogliere il fascino dell'eterno femminino. «Maria, ti presento mio cugino, il conte Andrea Sperelli Fieschi d'Ugenta». Andrea si inchinò. La bocca della signora si aperse a un sorriso che sembrò misterioso, poiché la lucentezza del velo nascondeva il resto della faccia. Quindi la marchesa presentò Andrea a Don Manuel Ferresi, Capdevila. Poi disse, accarezzando i capelli della bimba che guardava il giovane con 2 dolci occhi attoniti, «Ecco Delfina». Andrea sedeva di fronte a Donna Maria e a fianco del marito. Ella non aveva ancora svolto il velo. Teneva sulle ginocchia il mazzo di Ferdinando e di tratto in tratto lo portava alle nari mentre rispondeva alle domande della marchesa. Andrea non s'era ingannato. Nella voce di lei suonavano alcuni accenti della voce di Elena Muti, perfetti. Una curiosità impaziente l'invase di vedere il volto nascosto, l'espressione, il colore. «Manuel», diceva ella discorrendo, Partirà venerdì. Poi verrà a riprendermi più tardi. Molto tardi, speriamo, s'augurò cordialmente donna Francesca. Anzi, la miglior cosa sarebbe di andare via tutti in un giorno. Noi resteremo a Schifanoia sino al 1° di novembre, non più oltre. Se la mamma non mi aspettasse, resterei volentieri con te. Ma ho promesso di trovarmi in tutti i modi a Siena per il 17 d'ottobre, che è il natalizio di Delfina. Peccato. Il 20 d'ottobre c'è la festa delle donazioni a Rovigliano, tanto bella e strana. Come fare? Se io mancassi, la mamma ne avrebbe certo un gran dolore. Delfina è la dorata. Il marito taceva. Doveva essere di natura taciturno. Di mezza taglia, un poco obeso, un po' calvo, aveva la pelle di un color singolare, di un pallore tra verdognolo e violaceo, su cui il bianco dell'occhio nei movimenti dello sguardo spiccava come quel d'un occhio di smalto in certe teste di bronzo antiche. I baffi neri, duri ed ugualmente tagliati come i peli di una spazzola, ombravano una cruda bocca sardonica. Poteva aver 40 anni o poco più. Nella sua persona era qualche cosa di ibrido e di subdolo, che non gli sfuggiva a un osservatore. Era quell'indefinibile aspetto di viziosità che portano in loro le generazioni provenienti da un miscuglio di razze imbastardite, crescenti nella turbolenza. «Guarda, Delfina! Gli aranci tutti fioriti!» esclamò Donna Maria stendendo la mano al passaggio per cogliere un rametto. La strada infatti saliva tra due boschi d'agrumi, in vicinanza di Schifanoia. Le piante erano così alte che facevano ombra. Un vento marino alitava e sospirava nell'ombra, carico di un profumo che si poteva quasi bevere a sorsi, come un'acqua refrigerante. Delfina aveva posate le ginocchia sul sedile e si sporgeva fuori della carrozza per afferrare i rami. La madre la cingeva con un braccio per reggerla. «Bada, bada, puoi cadere! Aspetta un poco che io mi tolga il velo!» e la disse. «Scusa, Francesca, aiutami!» e chinò la testa verso l'amica per farsi districare il velo dal cappello. In quell'atto il mazzo di rose le cadde a piedi. Andrea fu pronto a raccoglierlo e nel rialzarsi a porgerlo vide al fine l'intero volto della signora scoperto. «Grazie», e la disse. Aveva un volto ovale, forse un po' troppo allungato, ma appena appena un poco di quell'aristocratico allungamento che nel XV secolo gli artisti ricercatori d'eleganza esageravano. Nei lineamenti delicati era quell'espressione tenue di sofferenza e di stanchezza che forma l'umano incanto delle vergini nei tondi fiorentini del tempo di Cosimo. Un'ombra morbida, tenera, simile alla fusione di due tinte diafane, di un violetto e di un azzurro ideali, le circondava gli occhi che volgevano l'iride lionata degli angeli bruni. I capelli le ingombravano la fronte e le tempie, come una corona pesante, si accumulavano e si attortigliavano sulla nuca. Nulla superava la grazia della finissima testa, che pareva essere travagliata dalla profonda massa, come da un divino castigo. «Dio mio!» esclamò ella provando a sollevare con le mani il peso delle trecce costrette insieme sotto la paglia. «Ho tutta quanta la testa addolorata, come se fossi rimasta sospesa per i capelli un'ora. Non posso stare molto tempo senza scioglierli. Mi affaticano troppo. È una schiavitù». Andrea pensò che in nessuna delle sue amiche egli aveva posseduta una tal capigliatura. Una così vasta selva e così tenebrosa, ove smarrirsi. Quanta ricchezza e varietà di linee avrebbe potuto dare al disegno di una figura muliebre quella volubile e divisibile massa di capelli neri. Non erano veramente neri. Egli li guardava il giorno dopo a mensa, nel punto in cui il riverbero del sole li feriva. Avevano riflessi di viola, cupi, di quei riflessi che ha talvolta l'acciaio provato dalla fiamma. Donna Maria parlava con finezza, mostrando uno spirito delicato e inchino alle cose dell'intelligenza, alla rarità del gusto, al piacere estetico. Possedeva la cultura abbondante e varia, l'immaginazione sviluppata, la parola colorita di chi ha veduto molti paesi, ha vissuto diversi climi, ha conosciuto genti diverse. E Andrea sentiva un'aura esotica involgere la persona di lei. Sentiva da lei partire una strana seduzione, un incanto, composto dai fantasmi vaghi delle cose lontane che ella aveva guardate, degli spettacoli che ella ancora serbava negli occhi, dei ricordi che le empivano l'anima. Ed era un incanto indefinibile, inesprimibile. Era come se la portasse nella sua persona una traccia della luce in cui era immersa, dei profumi che aveva respirati, degli idiomi che ella aveva uditi. Era come se la portasse in sé, confuse, svanite, indistinte, tutte le magie di quei paesi del sole. La sera, nella gran sala che dava sul vestibolo, ella s'accostò al pianoforte e la perse per provarlo. Ella parlava di musica con sottilità di intenditrice. «Io ho eseguita e ascoltata molta musica», diceva ella, «e di ogni sinfonia, di ogni sonata, di ogni notturno, di ogni singolo pezzo, insomma, conservo un'immagine visibile, un'impressione di forma e di colore, una figura, un gruppo di figure, un paesaggio, tanto che tutti i miei pezzi prediletti portano un nome, secondo l'immagine. Io ho, per esempio, la sonata delle 40 nuore di Priamo, il notturno della bella addormentata nel bosco, la gavotta delle dame gialle, la giga del mulino, il preludio della goccia d'acqua e così via. Ella si mise a ridere di un tenue riso che su quella bocca afflitta aveva un'indicibile grazia e sorprendeva come un baleno inatteso. Donna Maria parlava con piena confidenza, forse con una leggera esaltazione spirituale, come una donna che, lungamente oppressa dalla frequentazione forzata di gente inferiore o da uno spettacolo di volgarità, abbia il bisogno irresistibile di aprire il suo intelletto e il suo cuore a un soffio di vita più alta. Andrea l'ascoltava, provando per lei un sentimento dolce che somigliava alla gratitudine. Gli pareva che ella, parlando di tali cose innanzi a lui e con lui, gli desse una prova gentile di benevolenza e quasi gli permettesse di avvicinarsi. Egli credeva intravedere lembi di quel mondo interiore, non tanto per il significato delle parole che la diceva, quanto per suoni e per le modulazioni della voce. Di nuovo egli riconosceva gli accenti dell'altra. Era una voce ambigua, direi quasi bisessuale, duplice, androginica, di due timbri. Il timbro maschile basso e un poco velato s'ammorbidiva, si chiariva, si infemminiva talvolta con passaggi così armoniosi che l'orecchio dell'uditore ne aveva sorpresa e diletto a un tempo e perplessità, come quando una musica passa dal tono minore al tono maggiore, o come quando una musica, trascorrendo in dissonanze dolorose, torna dopo molte battute al tono fondamentale. Così quella voce ad intervalli faceva il cangiamento. Il timbro femminile, appunto, ricordava l'altra. «Cantate?» chiese Andrea alla signora quasi con timidezza. «Un poco», ella rispose. «Canta un poco», la pregò donna Francesca. «Sì», consentì ella, ma appena accennando, perché proprio da più di un anno ho perduta ogni forza. Nella stanza attigua, Don Manuel giocava col marchese da Teleta, senza rumore, senza motto. E nella sala la luce si diffondeva attraverso un gran paralume giapponese, temperata e rossa. Tra le colonne del vestibolo passava l'aria marina e muoveva di tratto in tratto le alte tende di Caramanier, recando il profumo dei giardini sottoposti. Negli intercolunni apparivano le cime dei cipressi nere, solide, come di ebano, sopra un cielo diafano, tutto palpitante di stelle. Donna Maria si mise al pianoforte dicendo: «Già che siamo nell'antico, accenerò una melodia del paesiello nella Nina pazza, una cosa divina». Ella cantava, accompagnandosi. Nel fuoco del canto i due timbri della sua voce si fondevano come due metalli preziosi, componendo un sol metallo sonoro, caldo, pieghevole, vibrante. La melodia del paesiello, semplice, pura, spontanea, piena di soavità accorata e di alata tristezza, su un accompagnamento chiarissimo, sgorgando dalla bella bocca afflitta, si innalzava con tal fiamma di passione che il convalescente, turbato fino al profondo, sentì passarsi per le vene le note a una, come se nel corpo il sangue gli si fosse arrestato ad ascoltare. Un gelo sottile gli prendeva le radici dei capelli, o ombre nere spesse gli cadevano sugli occhi. L'ansia gli premeva il respiro, e l'intensità della sensazione nei suoi nervi acuiti era tanta che gli doveva fare uno sforzo per contenere uno scoppio di lacrime. «Oh, Maria mia!» esclamò donna Francesca baciando teneramente sui capelli la cantatrice, quando tacque. Andrea non parlò. Rimase seduto nella poltrona, con le spalle rivolte al lume, col viso in ombra. «Ancora!» soggiunse donna Francesca. Ella cantò ancora un'arietta di Antonio Salieri. Poi suonò una toccata di Leonardo Leo, una gavotta del Rameau e una giga di Sebastiano Bach. Riviveva meravigliosamente sotto le sue dita la musica del XVIII secolo, così malinconica nelle aree di danza, che paiono composte per essere danzate in un pomeriggio languido d'un'estate di San Martino, entro un parco abbandonato, tra fontane ammutolite, tra piedistalli senza statue, sopra un tappeto di rose morte, da coppie di amanti, prossimi a non amar più.